valorizzato, perché una società sconnessa e tutta individualistica si protegge, e la maggiore protezione la vediamo nell'aumento incredibile del risparmio in questi ultimi 2 anni, specialmente quest'ultimo. E tutto questo fa sì che ci sia questa sorta di letargo, perché viene da questa sconnessione comune, da questa incapacità di fare gruppo, da questa incapacità di sentire il noi. Vince sempre l'io da questo punto di vista. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Sì, sono proprio io, ecco, stavo entrando con una certa fretta, poi in anticipo, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, perché so che state viaggiando velocemente, molti di voi, si parla di 6 milioni di italiani che vanno a godersi il loro ponte tra Sant'Ambrogio e l'Immacolato, cioè Sant'Ambrogio è santo di Milano, quindi gli altri non riguarda, però il lunedì è in mezzo alla festa dell'Immacolata, quindi molti di voi stanno partendo, stanno viaggiando, e voi giocondi che ve ne andate verso le vostre, anche se magari brevi vacanze, che tempo farà? Naturalmente, come sempre, qui il venerdì effetto notte sentiremo il nostro Paolo Corazzò, ma poi ci occuperemo di molte cose. Avete sentito prima Giuseppe De Rita, presidente onorario del Censis. Il Censis ha fatto, come di consueto, questo ritratto dell'Italia e degli italiani, dando un dato piuttosto sconfortante, dicendo che praticamente il nostro paese è un paese in letargo, un letargo proprio esistenziale, profondo, collettivo. C'è il prevalere del giorno per giorno, si vive così alla giornata, senza entusiasmi, senza prospettive, senza progetti. Anche voi siete così, o anche voi sentite intorno questo clima? Sapete che ci sono sempre due modi per intervenire e interagire qui a Effetto Notte: o la pagina Facebook del programma, dovete cercare Effetto Notte trattino Roberta Giordano, ogni tanto qualcuno me lo chiede come si va a cercare, è semplicissimo, oppure messaggi al 349-238-6666, 349-238-6666, che state viaggiando, che state lavorando, che siate in casa, ovunque siate, non perdete un solo istante di Effetto Notte. Come sempre vi racconto tutta la giornata, poi ci saranno come sempre gli ospiti per approfondire alcuni argomenti in particolare, per esempio la politica della settimana, il bilancio, che faccio sempre qui il venerdì con un ospite, in particolare un vice direttore del Sole 24 Ore, politica e dintorni, e poi ritorniamo anche sulla strage in California, perché anche oggi si sono, quella che c'è stata mercoledì in un centro per disabili a San Bernardino, si sono rincorse varie notizie dagli Stati Uniti. Sì, ci sono delle connessioni con l'ISIS, ma la Casa Bianca non conferma per il momento, non siamo nella posizione di farlo. Poi è arrivato 2 ore fa la rivendicazione dell'ISIS e l'FBI ha detto, beh, effettivamente pare che ci sia questa connessione. Ci collegheremo direttamente con gli Stati Uniti, poi parleremo di calcio, insomma di un sacco di cose. Come sempre vi ricordo, pagina Facebook di Effetto Notte, 349-238-6666, anche voi, orsi orsacchiotte, vi sentite in letargo, sentite che c'è questa specie di clima depressivo in cui insomma c'è una certa inerzia, anche se poi il Censis dice che c'è un rilancio del primato della politica, soprattutto uno sviluppo fatto di capacità inventive, individuali e collettive, però il clima dominante sarebbe questo. Mentre voi ci pensate, poi scrivete, io vi racconto in sintesi la giornata. La strage in California, arriva la rivendicazione dell'ISIS, a casa dei killer il manuale di Al-Qaeda. Le misure antiterrorismo, accordo europeo per il controllo dei dati dei passeggeri nei voli dentro l'Unione Europea, e anche il Parlamento tedesco dice sì alla missione in Siria. Economia italiana, la crescita rallenta allo 0,7%, ma Renzi dice siamo ripartiti, e per il Censis l'Italia è in letargo, ma cresce l'inventiva. Giubileo Alfano, non ci sarà la sospensione di Schengen, dell'accordo di Schengen, sciopero e targhe alterne. Intanto a Roma un altro venerdì nero, a 4 giorni dall'inizio dell'anno santo. Mafia, beni per milioni sequestrati ai fedelissimi del boss latitante Messina Denaro, cercavano un prestanome. Sport, nuoto d'oro, Paltrinieri conquista il record del 1500 stile libero, vincono anche le ragazze della staffetta con Federica Pellegrini, e per il calcio in campo nell'anticipo di Serie A Lazio-Juventus. Partiamo quindi dagli sviluppi delle indagini sulla strage in California di mercoledì in un centro per disabili, dove sapete ci sono stati 14 morti e 21 feriti. Oggi è arrivata la notizia che la coppia killer che ha provocato questa strage aveva strette connessioni con l'ISIS, ma la Casa Bianca ha continuato a ribadire non siamo nella posizione di confermare le notizie fatte circolare dai media, ma circa 2 ore fa si è appreso, ora italiana, che l'ISIS ha rivendicato la strage. La rivendicazione è giunta con un comunicato ufficiale attraverso AMAC, il network network di propaganda dello Stato Islamico, nel quale, del sedicente Stato Islamico, nel quale si afferma che due sostenitori dell'ISIS hanno compiuto la strage. La domanda che ci si può fare è, e che poi cercheremo di farci dopo, se davvero ne andavano così orgogliosi di questa rivendicazione dal loro punto di vista, no? Di questa strage, perché hanno aspettato due giorni per rivendicarla? Una domanda che mi faccio in questo momento. Comunque anche l'FBI poi poco fa ha detto è un atto di terrorismo. Vi dicevo, tra poco ci collegheremo con gli Stati Uniti. Intanto oggi il Congresso americano ha nuovamente bocciato norme per mettere sotto controllo la vendita delle armi. Non servono nulla gli appelli anche del presidente Obama, e in aggiunta si apprende che l'ISIS a Sirte si starebbe addestrando a pilotare aerei con i simulatori avanzati di volo, lo scrive il giornale saudita Ashark al-Abzat, citando fonti militari, precisando che gli jihadisti si starebbero addestrando nelle tecniche di decollo, atterraggio e nelle comunicazioni con la torre di controllo. E anche in Francia riparte la caccia all'uomo per gli attentati di Parigi. Ci sarebbero due nuovi sospetti già ricercati dalle polizie di Francia e Belgio. I due nuovi ricercati rispondono ai falsi nomi di Samir Bouzid e Soufflane Kayale. Sono pericolosi, si dice, e probabilmente armati, così dice la polizia francese. E questo mentre l'allerta è altissima a Londra, che partecipa ai bombardamenti in Siria. Sapete che il Parlamento londinese britannico ha votato pochi giorni fa, e oggi anche il Parlamento di Berlino ha dato il via libera alla missione. Il Bundestag tedesco ha approvato a larga maggioranza la missione militare a sostegno della Francia contro l'ISIS in Siria. Nessun bombardamento però, i tedeschi si limiteranno a fornire supporto militare. Berlino invierà una fregata a proteggere la portaerei francese De Gaulle, 6 aerei da ricognizione Tornado e un contingente militare che potrà arrivare fino a 1200 uomini. Intanto, dopo i primi raid inglesi contro 6 obiettivi dell'ISIS nell'est siriano, l'intelligence mette in guardia su possibili attacchi in Gran Bretagna. Ai servizi segreti non è ancora chiaro quanto la minaccia possa essere imminente né contro quali obiettivi, ma le informazioni raccolte dagli 007 internazionali parlano di militanti dell'ISIS in Siria e in Iraq pronti a tornare in Gran Bretagna per compiere attentati. Le informazioni dell'intelligence aggiungono alle minacce postate sui social network, dove si legge Londra dopo Parigi. Il tutto mentre in Libia, a Sirte, i piloti dell'ISIS si starebbero addestrando attraverso avanzati simulatori di volo, e quanto scrive il giornale saudita Ashark al-Azat, citando fonti militari. I simulatori potrebbero essere stati rubati da basi militari dell'aviazione del vecchio regime o potrebbero essere giunti dall'estero, riferisce il sito del giornale, adombrando l'intenzione dell'ISIS di cominciare ad attaccare dal cielo. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E per battere il terrorismo l'Europa scheda chi vola e organizza lo scambio di dati fra gli inquirenti di tutto il continente, cioè il Consiglio Affari Interni dell'Unione Europea ha concluso oggi, dopo 5 anni di discussioni faticose, un preaccordo sulla direttiva del PNR. Ci spiega adesso Sergio Nava di cosa si tratta. Ciao Sergio. Sì, ciao Roberta. Molto semplicemente qualcosa già avviene, perché alcuni paesi europei già stanno schedando chi vola, però diciamo diventa con questo accordo non ancora definitivo, perché manca il voto del Parlamento Europeo atteso poco prima di Natale. Praticamente tutti i paesi europei schederanno i passeggeri dei voli anche intraeuropei, perché c'era l'ipotesi di schedare solo chi partiva verso destinazioni extraeuropee, invece tutti i voli, compresi i charter, e le informazioni saranno visibili e scambiabili tra le varie autorità per 6 mesi. La Francia chiedeva un anno, alla fine si è andati sul periodo che chiedeva il Parlamento Europeo, anche per motivi sostanzialmente di privacy, cioè 6 mesi. Dopodiché i dati resteranno ancora in memoria nei vari database, però occorrerà una richiesta specifica per potervi accedere. Quindi era una misura che gli stessi Stati Uniti avevano chiesto all'Europa negli ultimi anni. L'Europa, con i suoi tempi abbastanza lunghi, e purtroppo ci è voluto anche un attentato così grave come quello di Parigi, alla fine ha chiuso questo piccolo tassello. Restano molti altri fronti aperti nella lotta al terrorismo, però questo pare finalmente chiuso. Quindi dall'anno prossimo, indicativamente, chi vola saprà che i suoi dati saranno immagazzinati, scambiati e consultabili liberamente dalle varie autorità per almeno 6 mesi. Grazie Sergio Nava. Del resto, se uno non ha nulla da nascondere, certo sono restrizioni alle libertà, ma finché sono queste penso si possano accettare in nome della sicurezza. E anche in Italia arrivano più fondi per la sicurezza. Il governo a caccia di risorse per la sicurezza nella legge di stabilità si va verso un pacchetto a due tempi, 500-600 milioni potrebbero venire subito dall'emersione dei capitali illegalmente detenuti all'estero, la cosiddetta voluntary disclosure. In un secondo tempo invece si potrebbero usare le risorse disponibili con la clausola di flessibilità sul deficit legata ad eventi eccezionali, quando in primavera l'Unione darà il via libera. Intanto il ministro Angelino Alfano vuole esportare il modello italiano sulla sicurezza in Europa. In Italia noi abbiamo un comitato di analisi strategica antiterrorismo al quale partecipano sia le forze antiterrorismo delle forze dell'ordine sia l'ambito delle intelligence e dei servizi. Questo modello stiamo tentando di esportarlo a livello europeo. E l'Italia non ha intenzione di sospendere Schengen per l'inizio del Giubileo. Noi vogliamo accogliere i pellegrini, dice Alfano. Ma intanto i sindacati di polizia contestano perché proprio a pochi giorni dall'inizio del Giubileo non hanno ancora alcune informazioni su quali siano le risorse effettivamente disponibili per la sicurezza. Elisabetta Fiorito, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. A proposito appunto di Giubileo, manca pochissimo e oggi per Roma è stata veramente una giornata di caos. A Roma quello di oggi è stato un giorno tutt'altro che facile per chi doveva spostarsi in città. Lo sciopero dei mezzi pubblici è la prima delle due giornate di targhe alterne decise dal Campidoglio per gli alti livelli di smog. Hanno creato infatti non pochi disagi, soprattutto in mattinata, a causa della protesta proclamata da un sindacato autonomo. Dalle 8.30 alle 12.30 le linee A e B della metropolitana sono state chiuse e hanno ripreso a circolare regolarmente soltanto dopo le 15, mentre i pochi autobus in circolazione sono stati presi d'assalto da romani e turisti. A Termini non sono mancati momenti di tensione quando alcuni passeggeri hanno cercato di forzare gli ingressi della metro trovati chiusi. In molte zone della città non sono mancate poi code e rallentamenti nonostante lo stop alla circolazione delle auto con targa dispari, un blocco del traffico duramente contestato sui social network dai romani proprio per la sua concomitanza con lo sciopero dei mezzi pubblici. Andrea Viali, Radio 24, il Sole 24 Ore, Roma. E siamo all'economia, coi dati sulla crescita ancora al centro di discussioni. La Banca Centrale Europea, che dopo ieri, dopo aver aumentato il quantitative easing fino al 2017, aveva detto Draghi, dice la Banca Europea può usare ulteriori strumenti di politica monetaria se necessario. E intanto per l'Italia arrivano nuovi dati Istat, cioè con una crescita un pochino a ribasso, ma poi di questo ne parleremo poi nel bilancio della politica della settimana. Tutto questo in un'Italia che, dice il Censis, appunto è in letargo. Stanno arrivando i vostri messaggi su questo, sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte, sia al 349-238-6666. Per la cronaca parliamo di questo vero e proprio tesoro sequestrato a chi è vicino al boss dei boss, il latitante Matteo Messina Denaro. Beni per 13 milioni di euro sono stati sequestrati a quattro fiancheggiatori, tutti arrestati lo scorso agosto. C'è un'altra polemica su, diciamo, simboli di Natale che vengono o rimossi, accantonati. Un presepe e canti natalizi vietati in una scuola materna a Golfo Aranci, Olbia, in Sardegna, e scoppia la protesta dei genitori sostenuta dal sindaco Giuseppe Fasolino e dal parroco Alessandro Cossu. L'ha voluta la preside di questa scuola e poi il sindaco invita le famiglie e anche il prete a non portare i bambini a scuola ma in chiesa, così da prepararli in vista delle festività cristiane. Insomma, questa è polemica che rimbalza da una scuola all'altra, da un'istituzione all'altra. Se volete anche su questo potete commentare. E poi in chiusura lo sport: europei di nuoto, si chiude con il botto per l'Italnuoto, la terza giornata degli europei in vasca corta di Netanya dopo l'oro di Gregorio Paltrinieri nei 1500 stile libero, stabilendo il nuovo record mondiale sulla distanza. Arriva nell'ultima finale il titolo, l'oro anche per le azzurre, della staffetta 4x50 di Federica Pellegrini. Invece, che succede a Lazio-Juventus in questo anticipo di Serie A, Giovanni Capuano? Ciao Roberta, buonasera. Succede che la Juventus è avanti 1-0. Siamo alla mezz'ora, in questo momento c'è gioco fermo perché c'è un giocatore della Lazio a terra, però la Juventus sta vincendo 1-0 e lo sta facendo anche con discreto merito. Ha iniziato meglio della Lazio, ha trovato quasi subito il vantaggio al settimo minuto, un vantaggio abbastanza casuale per come è stato costruito, perché c'è stato un cross di Alessandro dalla sinistra, la difesa della Lazio è andata un po' in affanno, la palla è arrivata a Dybala che ha tirato fortissimo verso il centro dell'area di rigore e lì Gentiletti, difensore centrale della Lazio, ha infilato la sua porta. Dunque un autogol per la rete dell'1-0, Juventus però che per 20 minuti è stata, diciamo, padrona del campo. Poi negli ultimi 10 si è vista la Lazio, ha battuto una serie di calci d'angolo, ha messo un po' in affanno la difesa davanti a Buffon, però non si è mai resa realmente pericolosa, quindi è una partita che in questo momento la Juventus sta controllando. Juventus che questa sera cerca la quinta vittoria consecutiva, ovviamente una vittoria importante, sarebbe anche la seconda consecutiva in trasferta dopo quella di Palermo, e significherebbe cominciare a dar corpo al progetto di una rimonta, magari una rimonta che possa nella seconda parte della stagione portare la Juve anche a giocare per lo scudetto. Siamo al 31esimo, 1-0 per la Juve. Ovviamente c'è anche la Lazio che è in grave difficoltà, compreso il suo tecnico. C'è chi dice che dovesse perdere questa sera potrebbe saltare. In tribuna c'è Marcello Lippi, che è uno dei nomi che viene fatto. Grazie Giovanni Capuano, poi ci riaggiorniamo su questa partita. Io non leggo mai, nel senso a voce alta, gli elogi, i complimenti, però questo è carino. Al 349-238-6666 si rende conto del meraviglioso senso di sollievo che restituisce la sua voce. Grazie signora Giordano, però mi chiami signora, mi viene un po' l'uveite a essere chiamata signora. Almeno un nome, però, se è un uomo, se è una donna, eccetera, eccetera, un nome d'arte, qualcosa. E poi dice un ascoltatore a proposito dell'età, che dice il Censis in cui viviamo, in cui vive l'Italia, questa mancanza di progettualità, questo vivere alla giornata, dice: io non posso nemmeno uscire di casa se non ho programmato almeno i successivi 3 giorni, dice un programmatore, una programmatrice. Francesco da Verona: Censis ha ragione, questi politici ci hanno tolto anche la speranza. A tra poco. Nuova Audi A4, scopritela negli showroom Audi e su audi.it. vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Eccoci insieme ancora con i vostri messaggi prima di cominciare a entrare nel cuore di alcuni argomenti tra i tanti che vi ho raccontato brevemente in questa prima parte. Dicevo, i vostri messaggi al 349-238-6666, questo è il numero per i messaggi, per gli sms, se no alla pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale potete aderire con entusiasmo in qualsiasi momento, giorno e notte. A proposito del quadro del Censis che fa dell'Italia, questa Italia in letargo, Daniele dice: a me sembra che ci sia un'Italia che tutti i giorni si rimbocca le maniche e un'altra troppo provincialmente pensa ad aspettare un aiuto dall'alto che non verrà mai più, nemmeno dopo un eventuale terzo dopoguerra, dice Daniele. E poi gli altri messaggi, ma adesso vi ricordo quali sono le notizie più importanti. Se state viaggiando, avete iniziato adesso, state stirando e avete acceso la radio in questo momento, eccetera, eccetera. Queste le notizie in primo piano. L'ISIS rivendica la strage in California di mercoledì. L'FBI dice: è terrorismo, in casa dei killer trovate armi esplosive e il manuale di Al-Qaeda. Missione anti-ISIS, c'è il via libera anche di Berlino, intesa in Unione Europea sui dati dei passeggeri da controllare, e intanto si apprende che i jihadisti si addestrano su simulatori di volo. La crescita rallenta in Italia, lo 0,7% secondo i dati Istat, ma Renzi dice: siamo ripartiti, e il Censis ribadisce appunto l'Italia è in letargo, anche se dice, diciamo, in modo consolatorio, cresce però l'inventiva. Roma oggi in tilt tra scioperi e traffico a 4 giorni dal giubileo, metro chiusa per ore. Alfano dice però: non sospenderemo l'accordo di Schengen, quello della libera circolazione delle persone. E ancora accelera la cessione dell'ILVA, il Consiglio dei Ministri vara un decreto da 300 milioni, il testo fissa al 30 giugno 2016 il termine dell'operazione di trasferimento a una nuova compagine societaria per un futuro stabile dell'azienda. Poi beni per milioni sequestrati ai fedelissimi del boss latitante Messina Denaro. E poi questa polemica intorno a Roberto Vecchioni, il cantautore, che in un incontro in Sicilia ha detto: questa Sicilia isola di M, ma lui dice che era una provocazione amorosa. Parliamo degli sviluppi sulla strage di mercoledì in California, in un centro per disabili a San Bernardino, non molto lontano da Los Angeles, con un bilancio di 14 morti e 21 feriti. La peggior strage di massa dopo quella di 3 anni fa a Newton, nel Connecticut. Oggi c'è stato un rincorrersi di voci. Si è detto che i due killer, una donna e un uomo, una coppia con un bambino, tra l'altro per fortuna presente, erano connessi, collegati in qualche modo all'ISIS, quindi non erano dei lupi solitari o degli sbandati. E poi la Casa Bianca ha fatto sapere a più riprese: non siamo nella posizione di confermare che effettivamente ci siano dei legami effettivi con l'ISIS. Poi però intorno alle 19 qualcosa ora italiana è arrivata la rivendicazione dell'ISIS, e adesso anche l'FBI dice, conferma, è un atto terroristico. Ci colleghiamo con Marco Valsania, corrispondente del Sole 24 Ore dagli Stati Uniti. Ciao Marco. Ciao. Allora, la domanda però da porsi, alla quale ovviamente non mi puoi rispondere tu, con te ricostruiremo il tutto e mi dirai quali sono gli ultimi sviluppi, però è come mai l'ISIS, che dovrebbe vantarsi dal proprio punto di vista di aver seminato altra morte, altro terrore, altro sangue, eccetera, abbia aspettato ben 2 giorni per rivendicare questa cosa? Qualcuno se lo chiede lì negli Stati Uniti? Ma sì, diciamo che l'interrogativo non è inspiegabile, diciamo, in realtà potrebbe avere una risposta, e le indagini americane, per quello che se ne è saputo, diciamo, sia in termini di conferme ufficiali che soprattutto in termini di indiscrezioni lasciate trapelare dall'FBI, potrebbero consentirci di comprenderlo. La pista che sta seguendo l'FBI, come dicevi, ha ufficializzato un'inchiesta per un atto di terrorismo, e quindi questo, diciamo, dimostra che diciamo, la serietà e la gravità di quanto è avvenuto, e questo l'ha fatto poche ore dopo aver lasciato trapelare che la moglie, la donna, diciamo, implicata nell'attentato, Tashfin Malik, in realtà aveva messo su Facebook un giuramento di fedeltà al califfo Abu Akr al-Baghdadi, il leader dello Stato Islamico, proprio nelle stesse ore in cui poi aveva orchestrato con il marito la strage di San Bernardino. Ecco, l'ipotesi che viene seguita dall'autorità è che si tratti di una forma di terrorismo interno, cioè che i due si siano radicalizzati in modo autonomo e indipendente, non con un legame diretto con ISIS, quindi diciamo una dinamica diversa rispetto a quella di Parigi, senza ricevere un ordine o un mandato esplicito da parte di ISIS, ma si potrebbe dire immolandosi in nome di ISIS. Quindi per questo che è arrivata poi la rivendicazione così tardi, perché ISIS ha capito a distanza che questi avevano seguito, diciamo, esatto, e anche il fatto che abbia espresso, diciamo, in forma abbastanza così generica la sua, diciamo, rivendicazione, cioè abbia detto nei fatti questo comunicato: due sostenitori di ISIS hanno portato a termine l'attacco in California. Quindi il termine, diciamo, sostenitori potrebbe anche, diciamo così, in qualche dare conferme ulteriori a questa pista in questo momento seguita, e ripetiamo in questo momento perché come hai detto anche tu prima, le indagini sono in costante evoluzione, ma insomma in questo momento questa è la pista principale seguita dalle autorità. Marco, per chiudere, poi ci risentiamo magari prima della fine della trasmissione, così se ci sono ulteriori sviluppi ce li dai. Volevo ricordare, come già avevo accennato ieri, che nel 2015 in America c'è stata in media più di una sparatoria di massa al giorno, cioè in 336 giorni ci sono stati 355 mass shooting, cioè episodi in cui rimangono uccise o ferite più di 4 persone. Fra l'altro Obama per l'ennesima volta ieri aveva lanciato l'appello al Congresso, al Parlamento americano, di riuscire finalmente a varare delle norme per mettere sotto controllo l'acquisto e la vendita di armi. Mi pare che oggi di nuovo il Congresso abbia bocciato, no, la possibilità di far passare queste norme. Assolutamente, ha bocciato 2 misure diverse, una tra l'altro esplicitamente mirata a vietare la vendita di esplosivi e di armi da fuoco a persone che siano sulla terrorism watch list del governo federale, cioè a sospetti di quantomeno di legami con atti di terrorismo, con personaggi del terrorismo, ai quali viene vietato, che sono messi al bando tra l'altro dall'imbarcarsi sugli aerei, quindi sono considerati talmente pericolosi che gli viene vietato di salire. Quindi di salire anche, sugli aerei. Anche nei confronti di queste persone non ha accettato il Congresso di mettere, esatto, dei paletti. Diciamo, esatto, una delle 2 proposte era esplicitamente mirata a questa, diciamo, a bloccare, a vietare questo tipo di vendita di armi, è stata bocciata, diciamo, anche quella dalla maggioranza repubblicana, un voto, diciamo, strettamente di partito al Senato, con tutti i repubblicani contrari e i democratici favorevoli. Questo ha suscitato chiaramente le ire della Casa Bianca ancora una volta. Obama Obama sembra stia considerando dei decreti esecutivi per poter aggirare questi continui veti del Congresso, ma non è ancora chiaro se riuscirà a far passare davvero dei maggiori controlli e una maggior severità sulla questa completamente libera compravendita di armi che come dicevi tu poi è alle spalle di molti massacri negli Stati Uniti. Grazie Marco Valsani, allora dopo magari ci sentiamo, ci sono delle novità degli Stati Uniti su questa indagine. Ciao Marco. Assolutamente, ciao. Qualcuno mi chiede perché non si parla affatto stasera dell'attentato al Cairo, perché in realtà poi si è scoperto che era stata una vendetta di lavoratori che erano stati licenziati, come purtroppo ogni tanto accade. Ritornando sui vostri messaggi a proposito del quadro del Censis, che dice che il nostro paese è ormai in letargo, un letargo esistenziale, collettivo, in cui ognuno è ripiegato un po' su se stesso, nel proprio solipsismo, direbbero i filosofi, in questa depressione un po' generale, ancora i vostri messaggi al 349-238-6666. E poi sulla pagina Facebook di Effetto Notte, per esempio Danilo dice: purtroppo sì, credo che sia dovuto all'effetto di molti fattori, vuoi crisi economica, la mancanza di uno Stato che non investe nulla per il futuro e che nonostante tutto vuole convincerci che tutto vada a gonfie vele, scuola pubblica, chiesa, politica, eccetera eccetera. Adesso sulla politica infatti ci soffermiamo sul bilancio della politica dintorni, come sempre ogni settimana, con il nostro Fabrizio Forché, vice direttore del Sole 24 Ore. Ciao Fabrizio. Ciao Roberta, buonasera. Allora, più che di politica partitica questa settimana, diciamo ce n'è stata poca, al di là di questa cosa. Sì, c'è poco. Al di là di questa cosa annosissima e anche un po' noiosa della consulta, che ancora dopo 17 mesi il Parlamento non è riuscito a eleggere i giudici. Quella è una cosa molto grave, però è una cosa molto grave da sottolineare. L'impressione che la cosa venga notata anche al Quirinale, dove Mattarella sta cominciando a vedere la cosa con sempre maggiore preoccupazione, e credo che presto farà sentire anche la sua voce su questo, perché oggettivamente c'è un organo costituzionale che rischia di essere, se non bloccato, di funzionare a ridotto, e il Parlamento, un altro organo istituzionale, non riesce ad eleggere i giudici che deve eleggere. Fabrizio, a questo proposito tu dici Mattarella si farà sentire, ma il presidente del Senato Grasso già si è fatto sentire, perché è veramente, diciamo, a questo punto è un'immagine pessima del Parlamento. Sentiamo. Non si può nascondere che il Parlamento stia dando al Paese una brutta immagine delle istituzioni rappresentative e della politica. Einstein diceva che fare sempre la stessa cosa e aspettarsi risultati diversi è mera follia. Possiamo convenire quindi che sia necessario, anche grazie alla pausa imposta dalla legge di stabilità, cambiare metodo e sfruttare al meglio questo tempo per trovare il consenso più ampio possibile su una terna di nomi. E per ora non si trova evidentemente per i partiti questa, cioè diventa più un sistema per salvaguardare certi propri interessi e esigenze che non, diciamo, nell'interesse generale, no? Come per tante sì, cose. Sì, questa volta ognuno guarda un po' al suo interesse. Il 5 Stelle rimane su una posizione di Aventino, di non partecipare alle scelte fondamentali del Parlamento, e questa scelta è una decisione alla quale la maggioranza deve essere comunque molto ampia. Evidentemente riduce molto la possibilità di trovare un'intesa su dei nomi plausibili poi per il resto del Parlamento. Fabrizio, invece, di interesse generale, la questione della disoccupazione, ci sono stati i dati questa settimana secondo i quali da una parte è diminuita la disoccupazione, però dall'altra sono diminuiti anche gli occupati, che sembrava un paradosso, ma in realtà è perché poi ci sono vari inattivi, tante persone che decidono per depressione, appunto per questo clima letargico, di non cercare neanche più lavoro. Sentiamo che cosa aveva commentato fra le altre cose Renzi. L'anno scorso la disoccupazione, ottobre 2014, stava al 13%, oggi è 11,5%, è ancora alta, però è un punto e mezzo in meno, era il 13%, oggi è l'11,5%. La disoccupazione giovanile stava al 46%, adesso è al 39,8%, se uno è contento perché è al 39,8% va ricoverato, però nell'ultimo anno siamo passati dal 46 al 39,8%. I posti di lavoro. Nel giro di un anno e mezzo, questo benedetto Jobs Act, che è più o meno contestato, ha fatto 300.000 posti di lavoro in più. Ma ne abbiamo persi 1 milione prima? Sì, ma nell'ultimo anno si è ripreso 300.000 posti di lavoro. Quindi i segnali di ripartenza ci sono. Sono sufficienti? Io non mi accontento mai. Io voglio che l'Italia vada meglio della Germania. Così ha detto Renzi a proposito dei dati sull'occupazione, Fabrizio Forché. Poi i dati oggi invece sulla ripresa dell'economia, no? Ci sono sempre in discussione, un giorno sembrano un po' più su, un giorno un po' più giù delle previsioni. Oggi l'Istat ha detto che la crescita del PIL, del prodotto interno lordo, sarà inferiore al più 0,9% indicato dal governo. Ma noi è da tempo che diciamo che la ripresa c'è, ma è una ripresa molto molto debole, che va rinforzata il più possibile con lo sforzo di tutti, lo sforzo del governo che deve fare le riforme, lo sforzo delle imprese, dei lavoratori, di tutti. Purtroppo questa settimana è stata una settimana dei dati tutti piuttosto negativi. Il dato sull'occupazione, lo ricordavi, quello che è più preoccupante è il secondo mese di seguito in cui cala il numero degli occupati. Al di là del tasso di disoccupazione, forse l'indice più significativo è proprio quello del numero totale degli occupati, che in effetti nei primi mesi dell'anno aveva avuto una tendenza tutta molto positiva, spinta anche probabilmente dal Jobs Act e dalla decontribuzione sui contratti a tempo indeterminato. Purtroppo negli ultimi due mesi questa fase si è invertita e l'occupazione in termini assoluti sta calando. E questo è un dato veramente preoccupante. Sul PIL è un gioco di decimali. Noi abbiamo detto alla fine che uno fa 0,9 o fa 0,8 a fine anno conta relativamente. Conta purtroppo come tendenza, cioè c'era una tendenza all'accelerazione che sembra che negli ultimi mesi ha un po' rallentato, e questo è piuttosto preoccupante perché non conta se facciamo 0,8 o 0,9, ma conterebbe come se noi ci avviciniamo al 2%. Cioè, per tornare a fare occupazione seriamente in questo paese, per recuperare quei tassi di disoccupazione così alti che abbiamo visto, tu devi crescere intorno al 2%. Se cresce lo 0,8, anche se cresce lo 0,9, cambia poco. Devi riuscire a rilanciare la crescita in maniera ben più robusta. Fabrizio, in questi 62 secondi che ci rimangono, io volevo farti sentire, voi eri presidente dell'INPS, ma te lo dico io in sintesi, e ci allaccio anche il Censis e anche tra i tanti messaggi uno di un ascoltatore che si chiama Michele. Allora, Boeri, in una simulazione che ha fatto l'INPS a proposito di quali saranno le pensioni nel futuro prossimo, ha parlato di 35 anni che andranno in pensione a 75 anni, con una pensione più bassa di quelli nati negli anni 40-50 del 25%. Allora io mi domando due cose. Una, se lavoreranno fino a 75 anni, come si potrà fare spazio ai più giovani? Due, quali energie avrà? Perché per carità, si può essere informissimi, ma a 75 anni, oggi come oggi, però fare le stesse cose che si facevano parecchi anni prima mi sembra una follia. E poi il Censi che dice siamo in letargo, c'è cioè come una depressione collettiva, e Michele che dice senza dubbio la cosa più triste, cara Roberta, riguarda il futuro per i nostri figli. Speriamo solo che prima o poi riusciremo a cambiare le cose, ma giorno per giorno è ormai una regola il vivere la giornata. Ci hanno rubato anche il sogno, forse siamo noi stessi che lo abbiamo piano piano cancellato. Roberto, io non vorrei venerdì sera, non vorrei concludere in toni troppo depressivi. È responsabilità tua, vedi tu come vuoi concludere. Il Censis dice anche che ci sono comunque degli spunti di eccellenza e di dinamismo in questo paese. Noi questi dobbiamo cercare di rafforzare e dobbiamo sapere che ci sono, perché oggettivamente ci sono. Noi abbiamo fatto questa settimana, abbiamo lanciato questo viaggio in Italia al Sole 24 Ore alla ricerca dell'innovazione che si fa in Italia, ma ne abbiamo trovata tantissima. Ci sono imprese che, malgrado diciamo, un contesto che poco incentiva a fare ricerca e innovazione, lavorano proprio su questo e creano, fanno brevetti, creano nuovi prodotti che poi vendono in tutto il mondo. A Bologna, nella zona di Bologna, ci sono imprese del biomedicale, della chimica, dei settori più avanzati della meccanica, che esporta in tutto il mondo grazie anche a brevetti e proprie ideazioni nuove della nostra industria. Beh, lo sappiamo ancora fare, insomma, puntiamo su questo e vediamo che magari insomma questa crescita riesce effettivamente a creare quell'occupazione che è il primo obiettivo che dobbiamo avere. E ha chiuso in bellezza. Grazie Fabrizio Forché, buon fine settimana, buon ponte. Ciao Roberta, grazie. Ciao Fabrizio. Ancora i vostri messaggi, pagina Facebook di Effetto Notte, 349-238-6666, sul quadro del Censis che ha fatto dell'Italia. Maria mi dice, lei è molto brava, l'ascolto molto volentieri, ma per carità respiri, e che mi alleno per andare nei fondali poi d'estate, tra poco. Ho deciso di indire un giubileo straordinario. Radio 24 vive l'inizio del giubileo in diretta. L'8 dicembre non perdere il nostro speciale sull'inizio del giubileo straordinario. Con i nostri inviati dal Vaticano, le voci degli organizzatori, le opinioni dei cittadini, gli approfondimenti sugli sviluppi del sinodo e dello scandalo VatiLeaks. L'8 dicembre segui le storie e le voci del giubileo insieme a noi alle 17 su Radio 24. Sarà un anno santo della misericordia. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi, molti vostri messaggi alla pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale potete aderire costantemente, oppure al 349-238-6666 su questo quadro che fa il Censis. Tra poco sentiremo il presidente onorario Giuseppe De Rita, ma vi ricordo brevemente tra le notizie più importanti: la strage in California, i nuovi sviluppi, arriva la rivendicazione dell'ISIS, a casa dei killer trovato il manuale di Al-Qaeda, e poi le misure antiterrorismo, accordo europeo finalmente raggiunto per il controllo dei dati dei passeggeri, il famoso PNR, nei voli dentro l'Unione Europea. Anche il Parlamento tedesco dice di sì alla missione in Siria. Ora vi farei sentire appunto Giuseppe De Rita, presidente onorario del Censis, intervistato da Sebastiano Barisoni a Focus Economia. Questa società, apparentemente tutta connessa sul web con ricchezza di connessioni, alla fine è una società sconnessa, perché è troppo molecolare, troppo individualistica, non fa gruppo, non fa comunità, e quindi in qualche modo questa sconnessione crea una solitudine personale che diventa una solitudine vuota, che diventa una incapacità di pensare il futuro, che diventa una incapacità di investire. Quindi è tutto securizzato, perché una società sconnessa e tutta individualistica si protegge, e la maggiore protezione la vediamo nell'aumento incredibile del risparmio in questi ultimi due anni, specialmente quest'ultimo. E tutto questo fa sì che ci sia questa sorta di letargo, perché viene da questa sconnessione comune, da questa incapacità di fare gruppo, da questa incapacità di sentire il noi. Vince sempre l'io da questo punto di vista, anche rispetto al fenomeno degli ultimi mesi, la guerra, è la reazione fondamentale: io che c'entro con la guerra, ci pensino altri. Però questa dimensione qui ha avuto un'aggressione rapida e un'aggressione lenta, cioè da una parte l'aggressione rapida è stata quella del governo, quella, se vogliamo, anche di Renzi, perché il governo ha deciso una specie di cura forte per uscire dal letargo. Purtroppo il cavallo non beve, come si diceva quando io ho cominciato a lavorare, il cavallo non beve, perché invece di comprare, invece di investire, invece di farsi un futuro, la gente preferisce star lì. È lì il problema cruciale, che sembra economico, che invece è sociologico, cioè è una società che in qualche modo sta nel suo recinto, ecco. Come diciamo noi, è certamente in letargo, ma forse più che in letargo, in un limbo. È questo limbo che in qualche modo spaventa, perché c'è questa sorta di incapacità di reagire a uno stimolo esterno. Giuseppe De Rita del Censis, letargo. Quindi Luciano scrive: non è letargo, bensì anzianità. In 40 anni le nascite sono calate del 50%, e secondo voi questo non incide sull'economia? Dice poi pagina Facebook di Effetto Notte Elena: è così, le persone hanno voglia di reagire, ma la politica non innova, non investe, non sburocratizza, non smette di finanziarsi e non pensa abbastanza ai nostri giovani. Viabilità. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su Audi.it. Vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E rieccole brevemente in pochi secondi. Con l'ISIS che rivendica la strage in California a San Bernardino, l'FBI conferma è terrorismo. Poi la missione anti-ISIS, via libera anche di Berlino, e l'intesa in Unione Europea è stata raggiunta sui dati dei passeggeri. I jihadisti intanto si apprende e si addestrano sui simulatori di volo. Per quanto riguarda l'economia italiana, crescita rallenta dello 0,7%. Mi dite perché corri? Perché ho troppe cose da raccontarvi. Adesso lo spazio europeo. Europa 24 notte. Facciamo il bilancio della prima settimana di COP21, cioè la conferenza internazionale sul clima delle Nazioni Unite, che ha aperto il 30 novembre a Parigi e che prosegue sino all'11 dicembre. Da lunedì, qui a Le Bourget, a Parigi, Alla COP21 la bozza sul clima, stilata dai negoziatori tecnici, sarà nelle mani dei ministri dell'ambiente. Dovranno trovare la quadra tra gli aspetti tecnici e le pressioni politiche. Come previsto, i delegati dei ministeri, che hanno lavorato per tutta questa settimana, sono intanto giunti a una sorta di accordo. 50 pagine anziché 54, comprese le 26 in cui sono racchiusi gli impegni vincolanti. Prima erano 31. Una bozza che però, a detta di molti, resta ancora molto pesante per quanto riguarda le 250 opzioni aperte, oltre un migliaio di termini tra parentesi. Il nodo principale resta quello dei finanziamenti per gli interventi di riduzione delle emissioni e adattamento al clima che i paesi avanzati dovrebbero fornire a quelli emergenti e in via di sviluppo. Disaccordi pesanti restano anche sull'obiettivo di contenimento dell'aumento della temperatura globale rispetto all'età preindustriale, come ci racconta Mauro Albrizio, direttore dell'Ufficio Europeo di Legambiente. Legambiente è una delle organizzazioni leader del Climate Action Network, che è 800 organizzazioni in giro per il pianeta, che ci coordiniamo quotidianamente, noi del CAN europei con la delegazione dell'Unione Europea. Sono tre le questioni centrali. La prima, che è la più importante, visto che gli impegni annunciati, nella migliore delle ipotesi, ossia che abbiano una rigorosa applicazione, ci portano ad una traiettoria tra 2,7 e 3 gradi centigradi di riscaldamento e quindi ben al di sopra della soglia critica dei 2 gradi, è importante che nell'accordo di Parigi vi sia il cosiddetto ratchet up mechanism, ossia un sistema di aumento periodico degli impegni, sia di riduzione, quindi di mitigazione, di adattamento ai mutamenti climatici in corso e di sostegno finanziario ai paesi più poveri, a partire da subito dopo Parigi, perché come tutti sappiamo l'accordo siglato qui a Parigi sarà operativo a partire dal 2020, quindi è importante che già dal 2018 ci sia la prima revisione, in maniera tale che quando si parta col piede giusto. L'altra questione centrale è quella delle risorse finanziarie, bisogna mettere in campo un piano d'azione che sostenga e che mantenga l'impegno dei 100 miliardi di dollari entro il 2020 e che al tempo stesso definisca un sistema di adeguamento dal 2021 al 2030. Altra questione centrale è, collegato agli aiuti ai paesi poveri, anche tutta la parte che ha a che fare con loss and damage, ossia la questione di compensazione dei danni che già le comunità vulnerabili stanno sostenendo. Dalla prossima settimana, dunque, i negoziatori tecnici lasceranno la parola ai ministri dell'ambiente e si spera che si arrivi a una quadra. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Europa 24 notte. In collaborazione con Euronet Plus. Grazie Ennio a tutti i messaggi che stanno arrivando. Adesso ci dobbiamo collegare con gli Stati Uniti. Marco Valsania, c'è qualche aggiornamento sulla strage di San Bernardino? Sì, un rapidissimo aggiornamento. Ha parlato per la prima volta ufficialmente il direttore dell'FBI, James Comey, che ha spiegato perché a questo punto si tratta di un'indagine di terrorismo, per un atto di terrorismo. Abbiamo trovato, ha detto, segnali di radicalizzazione, possibilmente ispirati da organizzazioni terroristiche internazionali. Però ha anche precisato, non abbiamo invece trovato indicazioni che i due responsabili della strage facciano parte di un network di terroristi. Quindi ancora non sono chiarissime alla fine le questioni, però grazie tanto di questo aggiornamento. Marco Valsania da New York. Mentre la partita, che aggiornamento ha Giovanni Capuano? Mi sa che la Juventus la sta un po' schiacciando questa Lazio? Sì, la Juventus la sta facendo sua questa partita, secondo tempo che è iniziato da 90 secondi, quindi siamo davvero all'alba della ripresa, ma Juventus che avanti 2-0, ci eravamo lasciati con l'autorete di Gentiletti al settimo minuto su un tiro molto forte in mezzo all'area di rigore di Dybala. Ebbene, proprio Dybala, poco dopo la mezz'ora, al 32esimo minuto, ha trovato il gol del 2-0 ed è stato un gol bellissimo perché l'argentino si è alzato la palla da solo con la coscia destra e poi con un sinistro bellissimo ha messo all'angolino. Forse Marchetti è partito un po' in ritardo, ma insomma bisogna applaudire Paul Dybala, giovanissimo neoacquisto della Juventus. Questo è il suo settimo gol nelle prime 15 giornate della prima stagione in bianconero, è un giocatore sempre più decisivo dopo che inizio campionato aveva fatto un po' fatica. Ora il secondo tempo è iniziato da 2 minuti e Pioli prova a correre ai ripari, ha inserito Keita e Felipe Anderson, che erano stati seduti in panchina nel primo tempo, fuori Candreva, che aveva un problemino fisico, fuori anche Kishna, altro giovanissimo però impalpabile nei primi 45 minuti. Insomma, ci aspettiamo di vedere una Lazio che provi un attimo a sbilanciarsi in attacco, ma sinceramente la Juve pare in controllo. Grazie Giovanni Capuano. E adesso il nostro Paolo Corazzò di Trevi Meteo, certamente portatore sano di sole, ci porterà del sole per questo ponte. Stai già tossendo, hai preso freddo? No, lo sto ridacchiando perché mi chiedi sempre il sole. Sadicamente. Io non ho ancora di questi poteri. Comunque non ho brutte notizie nel complesso da darvi, perché sarà un ponte discreto. Alcune zone d'Italia però devono fare i conti con nebbie e nuvole basse, soprattutto la pianura padana, che tra domani e dopo avrà ancora cielo grigio e temperature piuttosto basse. Bello. Del resto d'Italia invece sì, un po' di nuvole di passaggio, ma temperature che arrivano anche a toccare i 15 gradi, al sud li supereremo anche, e comunque tra lunedì e martedì un po' in tutta Italia saranno ampie le schiarite, quindi ti ripeto, discreto come ponte, una svolta l'avremo dopo il 15 di dicembre, ma insomma ci aggiorneremo. Senti, ma una svolta bello brutto o invernale volevi dire? Una svolta invernale, cioè finalmente, dico io da meteorologo, l'inverno si farà sentire, ma ti ripeto, c'è ancora da aspettare un pochino, per il momento è ancora dormiente, siamo in attesa, ma comunque nel suo complesso, guarda, noi di Trevi Meteo prevediamo un inverno non particolarmente cattivo, semplicemente dal 20 in poi dovrebbe riportare, che ne so, un po' di neve in montagna, temperature un po' più basse in tutta Italia, ma nulla di così sconvolgente. Grazie Paolo Corazzon, ti perdono per queste notizie, comunque buon tempo a te comunque. Buon tempo a tutti, ciao Paolo. Mentre ringrazio voi per i tanti messaggi che continuano ad arrivare sulla pagina Facebook di Effetto Notte, insomma molto pessimismo, qualcuno dice già sono depresso io e pensavo di esserlo soltanto io, invece evidentemente questo clima di letargo, di ripiegamento su se stessi e di anche un po' rinunciatario evidentemente è comune, però cerchiamo come sempre di reagire con grinta, può essere retorico, può essere banale, del resto che altro ci rimane, diciamo, ci rimane di aggiornarci alle 22, tra poco.